大音精华，声系天下，北京人民广播电台公益广告。 我是消防车，守卫着这座城市。 出发！ 很多人说我有红色的铠甲，坚定的信念和无坚不摧的体魄。可是，每当看到人们因为不小心的疏忽造成难以挽回的损失，我的心…… 提高消防意识，远离火患，幸福平安。 我有红色的铠甲，坚定的信念和无坚不摧的体魄。可是，每当看到人们因为不小心的疏忽造成难以挽回的损失，我的心…… 提高消防意识，远离火患，幸福平安。 带您遨游缤纷多彩的 CD 世界，带您畅享音乐的盛宴。北京音乐广播古典音乐有限频道，调频98.6兆赫，每天7点19点播出 CD 博览。 欢迎收听 CD 博览，我是古月。今天带来的是戴卡唱片公司发行的帕瓦罗蒂纪念经典专辑中的第一张 CD， 演唱曲目有《今夜无人入睡》《冰凉的小手》《祝酒歌》《圣洁的阿依达》《美女如云》《星光灿烂》《穿上戏装》《女人善变》《花之歌》《天空和海洋》。 Thank you. Thank you. sogno s'avverà se. Un esercito di brodi da me guidato. Dirti, per te ho pugnato, per te ho vinto. questa quella per me pari solo a quant'altro che intorno, intorno mi vedo del mio cuore l'impero non c'è ma meglio dura che ad altra beltà la costoro apparenza e quel dono di che il fato nel filore alla vita so di questa mi torna gradita forse un'altra, forse un'altra domanda sarà un'altra forse un'altra domanda sarà la costanza tiranna del cuore le festiamo quel morbo crudele so chi muore si servi fedele non morno se non v'è libertà due mariti il geloso amore degli amanti le smania e carino ancora d'arco c'è un tocco di sfido sempre pugge, sempre pugge una qualche beltà sì mi punge una qualche beltà che lucevan le stelle.

Thank you.

l'attendo, ardente spira, oggi l'evento dell'amore. A quel cuore che Vieni, amato, ben amico. te nel suo mistero le diverse bellezze.